ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Quest'oggi apriamo con uno spettacolo di Fabrizio Gifuni, in scena al Teatro Vasciallo di Roma fino a domenica, e da martedì 6 ottobre aprirà la stagione del Piccolo di Milano fino al 17. Con il vostro irridente silenzio, l'artista continua l'antibiografia di una nazione e narra la tragedia di Aldo Moro, i 55 giorni di prigionia. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale. Che idea si è fatto di Moro dopo aver studiato le sue carte scrivendo questo lavoro? Le carte di Moro sono state oggetto di una doppia maledizione. Sono state avvolte due volte da un cono d'ombra ed è questo il motivo che poi mi ha spinto a lavorarci sopra, perché c'è un quadro internazionale molto complesso. Ma nel momento in cui queste carte vengono di fatto desecretate e oggi tutti possono leggerle, ecco, queste carte che dovrebbero essere patrimonio collettivo non le legge più nessuno. La maggior parte delle persone che viene in teatro la sera è sorpreso dall'ascoltare per la prima volta quelle parole di cui, nella migliore delle ipotesi, ha ascoltato qualche brevissimo frammento che è stato passato in qualche modo e che è diventato più celebre, qualche passaggio delle lettere o qualche brevissimo passaggio del memoriale. Il pubblico, quando esce dal teatro, non crede alle proprie orecchie. Il cadavere è stato notato da alcuni passanti a bordo di un'auto parcheggiata in via Michelangelo Caetani. Il corpo del morto è riverso sui sedili posteriori dell'auto e avvolto in alcune coperte. Questo è anche un labirinto in cui è facile perdersi, e io credo che da uomo di teatro ho molta fiducia nei testi, e quindi ho scelto di fare questo lavoro non per parlare del caso Moro, non per portare un mio punto di vista sulla vicenda e sulla vicenda giudiziaria, ma il mio punto di vista è semplicemente quello di farmi carico di queste parole, restituirle in questo rito laico antichissimo che si chiama teatro, dove ogni sera si raduna una parte della comunità, una rappresentanza della comunità di cui io faccio parte, di cui i corpi di scena fanno parte, come se io, diciamo, mi staccassi ogni sera dal coro e andassi a interpretare e a riferire quelle parole per conto di tutti. Ecco, avendo fiducia nei testi, credo che ci sia molto da scoprire studiando le parole di Moro. Ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle Botteghe Oscure in una R4 rossa. E Moro urla continuamente dal carcere: perché non mi credete? Che cos'è che non vi torna? Non vi piace la mia calligrafia? Ma venite voi qui dentro al posto mio. Pensate che qui dentro si possa scrivere con una grafia ordinata? Spostiamo in Umbria, al Narni Città Teatro è in corso una 3 giorni con artisti come Elio Germano, Emma Dante e Moni Ovadia. Abbiamo scelto uno spettacolo suggestivo, afferma Moni Ovadia, che si terrà all'alba di domani, 4 ottobre alle 6:30, presso Ala Deruta, l'ex refettorio di Sant'Agostino. Lo spettacolo si chiama Nascita. Nel mondo ebraico il grembo materno è in grado di trasformare le tenebre in luce, perché nel mondo ebraico non esiste lo stupro etnico, per esempio, perché il figlio della madre ebrea, in qualsiasi condizione sia avvenuta la fecondazione e chiunque sia il padre, il figlio della mamma ebrea è accolto nella comunità degli ebrei, quindi anche il figlio di una violenza. Io non vorrei sembrare guascone o arrogante, ma ritengo in qualche misura di essere un piccolo sciamano laico che attraverso la parola, la narrazione, si rivolge a una comunità che sono gli spettatori, che si raccoglie espressamente per ascoltare il mio modesto contributo. Nell'ebraismo è detto che Dio ha creato l'uomo perché amava sentire raccontare storie. Racconto una narrazione mistica che viene dal mondo hassidico dell'ebraismo, dell'esilio centro-est europeo, che purtroppo è stato cancellato dalle forze brutali, dalla violenza, dall'odio, e dice un famoso salmo di Davide: com'è bello e buono sedersi vicini, fratelli, uno accanto all'altro. Andiamo adesso al Teatro India di Roma, dove fino all'11 ottobre va in scena La filosofia del boudoir del celebre Marchese de Sade, una pièce sui generis vietata ai minori di 18 anni per la regia di Fabio Condemi. Che l'energia dell'uomo non ancora intaccata dalla civiltà e quindi non è un vizio ma una virtù. Confronto con la scrittura del Marchese de Sade, è un autore al quale ho pensato anche in relazione al tema di questa biennale, che è la censura. È un autore proibito, censurato, è stato messo all'indice da tutti, dalla Chiesa come dai suoi contemporanei, e ha passato tutta la vita in prigione. E andare a ricercare nella letteratura di questo grande censurato, di questo grande maestro anche del libero pensiero, che si è passato tutta la vita in prigione per quello che scriveva. Poi perché mi interessava molto questa scrittura che non dà assolutamente soluzioni, è una scrittura ruvida, a tratti noiosa anche, lunga e nauseante per alcuni aspetti, però è come se la scrittura di de Sade arrivasse nello stesso tempo a delle vette di crudeltà, però in un senso nobile, in un senso vivo, irraggiungibili. No, non c'è piacere uguale al mondo, è quello dei filosofi, è quello degli eroi, sarebbe quello degli dèi se gli organi di questo stesso piacere non fossero essi stessi i soli dèi che dobbiamo adorare sulla terra. Non è pericoloso oggi in un momento di femminicidi? Non credo, nel senso che paradossalmente de Sade è un illuminista, non fomenta nessun lato oscuro, anzi fa la cosa esattamente opposta, cioè con le armi della luce, dei lumi della ragione, illumina le tenebre che ci hanno incatenato prima. Quindi lui dice: perché non farsi delle domande sull'essere umano? Adesso che c'è stata la rivoluzione francese, lui si chiede, e abbiamo ucciso il re e abbiamo abolito, insomma, il nostro legame con il cristianesimo, cosa è giusto, cosa è sbagliato? Perché non farsi delle domande? Finiamo con due appuntamenti di danza. Al Torino Danza Festival, in prima nazionale, va in scena stasera alle Fonderie Limone di Moncalieri Tra le linee di Simona Bertozzi, compagnia di balletto e quartetto Next. Tra le linee è un progetto nato dall'incontro con Claudio Pasceri. Claudio Pasceri è un violoncellista, componente del quartetto d'archi Next, ed è anche direttore artistico del Festival Est Ovest, che si svolge già da diversi anni a Torino. E l'incontro con Claudio è stato importante per costruire questo progetto nel rapporto fra coreografia e musica, ed è stato Claudio a propormi questo orizzonte interessantissimo di visione appunto fra Beethoven e Rim. L'aspetto del limite è stato affrontato dal punto di vista coreografico, scegliendo appunto la dimensione del quintetto quintetto e non del quartetto, quindi rispetto al rapporto con la musica, quindi al quartetto d'archi, ho pensato che poteva essere interessante non ragionare in una dimensione 4 a 4, come dire matematicamente collocare un danzatore nel rapporto con uno specifico strumento, con l'andamento di uno degli strumenti, ma proprio pensare a questo aspetto a gerarchico che emerge dalla composizione beethoveniana e pensare invece a un rapporto più fra individuo e collettività. Nell'ambito del Napoli Teatro Festival, invece, in scena questa sera al Teatro Bellini, Camille, ispirato a Camille Claudel, sorella del poeta Paul, allieva dello scultore Auguste Rodin, per la coreografia di Francesca Gamella. Me ne innamorai, e come non lo ero mai stato. Nessuno avrebbe detto che in quel piccolo corpo si nascondesse una continua tempesta dei sensi, e che abbracciare lei fosse come abbracciare un bosco nella tormenta. Camille Claudel era una donna forte, determinata, passionale, innamorata della vita, piena di sogni, benché chiaramente ha passato la vita intera a cercare di affermarsi. Sicuramente un cognome conosciuto perché è stata la sorella del famoso, il celebre scrittore Paul Claudel. Sapeva quello che voleva, aveva questo rapporto ostile con la madre che cercava chiaramente di educarla, quasi ammorbidire questa sua, diciamo, irriverenza, questo suo essere sfrontata. Quella ragazza ribelle e sottomessa allo stesso tempo mi ha cacciato fuori dai miei pensieri, fuori dalle mie abitudini, fuori dalle mie curiosità. Non bastava più alcuna donna che frequentava il mio atelier a colmare quella energia che solo il suo corpo riusciva a sprigionare. Quello che accade in scena era importante che l'attore e il danzatore vivessero empaticamente, sentimentalmente ed emotivamente quello che accadeva, per cui non parlerei di coniugare il teatro alla danza, ma più che altro sono dei tasselli che si incastrano perfettamente, interagiscono tra di loro, quasi a tessere come se fossero due fili che si intrecciano e tessono la stessa trama. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che ci potete riascoltare su podcast e scriverci a cartellone@radio24.it. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.